吃起来的。 Thank you. We'll be right back.

I don't want to go. facciamo l'ultima, grazie, siamo in diretta a Bologna. Grazie a tutte e tutti, grazie al corso, grazie al Vito. Se volete abbiamo dei dischi, delle magliette, eccetera, eccetera. Baci. Cigarette smoke from